Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che oggi c'è l'appuntamento con la poco invidiabile classifica degli sprechi della pubblica amministrazione, regionale, comunale e anche su base nazionale. L'altra notizia di oggi riguarda ovviamente i mercati finanziari, che sembrano essersi accorti così il giorno dopo, dopo un saliscendi ieri totale, nel senso che da più 4 si è passati a una chiusura invariata e negativa per alcune borse europee. Dicevo, oggi sembrano essersi accorti dell'effetto Draghi, un effetto un po' ritardato. Comunque, Milano è vicina ai 19.000 punti, 18.900, più 4,50%, con le banche che stanno crescendo tantissimo. Milano più 9,14, Unicredit più 8,60, UbiBanca più 8,60, ancora Anima Holding più 8,50, Banco Popolare più 8,16, Monte dei Paschi più 8% e Popolare Emilia Romagna più 7,80, Generali più 7%, Intesa San Paolo più 6,90%, poi bene anche Saipem più 6,70%, come Finmeccanica e Unipol, Unipol Sai più 6,20 come Exor e A2A, Poste Italiane più 5,20, Telecom più 4,5, Fiat Chrysler più 4,30, CNH più 4%. Di negativo c'è solo Italcementi, meno 0,68%. Se fosse un ragionamento solo, diciamo, sulle banche italiane, come ieri in maniera molto, secondo me anche un po' offensiva, dichiarato dal presidente delle Sparkasse, quindi le casse di risparmio territoriali tedesche, che la mossa di Draghi avvantaggiava le banche del sud Europa sull'oro del fallimento, dovremmo vedere un rialzo solo a Milano. Invece Francoforte guadagna il 3,30%. Certo che l'appiattimento dei tassi rende meno profittevoli i guadagni delle banche, anche tedesche, perché a questo punto tu non riesci ad aumentare il margine tra quello che è il costo per te del denaro a breve e quello che riesci a applicare nel medio lungo termine, che è dove la banca guadagna. Però insomma, il fatto che le banche tedesche possono guadagnare meno, anche le banche tedesche, ce ne faremo una ragione. Dicevo, ma il fatto che la mossa venga vista in positivo su tutti i mercati lo dimostra Francoforte, più 3,30%, Parigi più 3%, e per converso lo dimostra Londra, che invece guadagna solo l'1,50%. Devo dire che ha dato una mano anche il Dow Jones, in rialzo in questo momento dell'1,20%, euro su dollaro quota 1,11. Bene anche, molto bene Finmeccanica, c'è un'intervista dell'amministratore delegato Moretti che ha infiammato in qualche modo il titolo, anche se poi adesso guadagna 6,70%, 10,50 euro. Ne parleremo nel corso dei mercati finanziari e avremo anche il punto sugli scenari tra Mario Draghi e frontiere bloccate nei Balcani, quindi questa Europa che, diciamo, dà la sensazione sempre di più, da un punto di vista politico, di non saper chi pesci pigliare, di essere, di non dominare le situazioni ma di subirle, mettiamola così, per essere buoni. Ne parleremo con il mitico Giulio Sapelli, nel senso che torna l'uccellaccio con cui ragioniamo di geopolitica, se il termine non sembra troppo alto. 349-238-6666 per i vostri sms e per WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, il petrolio sfiora oggi, del motivo per cui vanno bene anche i titoli energetici, $39 al barile, di nuovo ai massimi da tre mesi. È l'effetto non enorme ma continuo della decisione dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, che ha preannunciato la fine della caduta continua delle quotazioni del greggio come conseguenza dei tagli alla produzione dei paesi OPEC e non OPEC. E quindi, insomma, da questo punto di vista il braccio di ferro tra Arabia Saudita e Stati Uniti per cercare di buttare fuori dal mercato i produttori di shale oil e gas americani beh, è stato perso. Se dobbiamo guardare la situazione in questo momento, si sono arresi al fatto che con un petrolio a $30 in molti paesi dell'OPEC, l'OPEC si stava sfaldando, per non dire che si è già sfaldato, è arrivata in soccorso la Russia. Allora, Deutsche Bank invece taglia i bonus ai propri manager, ma aumenta il totale degli stipendi da 10 a 10 miliardi e mezzo. La più grande banca d'affari d'Europa, che ha chiuso l'esercizio, lo ricordo, con una maxi perdita dovuta anche alle sanzioni, da 6 miliardi e 700 milioni di euro ha ridotto i premi a 2 miliardi e 400 milioni di euro, ossia il 17% in meno rispetto a un anno fa. Allora, oggi ancora un po' di mal di pancia in Germania, la politica della BCE diventa sempre più inefficace, noi vediamo paesi come l'Italia che nonostante i tassi bassi non attuano le riforme e aumentano ancora le spese, lo ha detto il saggio economico tedesco Lars Feld alla Bild. Le nuove misure non cambieranno nulla, in realtà, come cercheremo di spiegare dopo, la mossa della Banca Centrale Europea rischia di non produrre gli effetti sperati se non vi sarà una corrispondenza, diciamo, dall'altra parte per quello che riguarda Bruxelles e le politiche europee, cioè aiutare i paesi comprando titoli di Stato, tenendo bassi i rendimenti dei titoli di Stato, bassissimi, sotto zero, dando liquidità all'area euro attraverso lo stampaggio di euro comprando titoli di Stato, dare la possibilità di acquistare anche obbligazioni non bancarie ma societarie con un buon livello di voto. Quindi investment grade, come si dice in gergo, e portare dal 33 al 50% l'acquisto possibile di ogni singola emissione di titoli di Stato è il massimo che la BCE può fare. Dopodiché, se non parte una politica europea improntata alla crescita, non a parole ma nei fatti, quindi non con il piano Juncker, è chiaro che da solo Draghi non può fare. Comunque, difeso dal vicepresidente della Banca Centrale Europea Vittor Constancio, in cui dice senza il cui la deflazione sarebbe stabile e sarebbe molto peggiore, al contrario, cioè i governi che vorrebbero spendere sono quelli che non possono spendere, invece non spendono quelli che potrebbero spendere, riferimento abbastanza chiaro anche alla Germania. Nel frattempo la crisi umanitaria raggiunge il suo culmine in Grecia. Vi ricordo che questa è la settimana in cui Radio 24 ha dedicato molti approfondimenti durante i GR, in effetto giorno, effetto notte, in questo programma, all'Europa al bivio greco, nel senso che secondo noi in Grecia in questo momento o si fa o si ripristina l'Europa o l'Europa prenderà un altro colpo. Non dico definitivo ma pesantissimo sul doppio fronte del trattamento alla Grecia da un punto di vista economico e dell'aiuto alla Grecia per quello che sta reggendo. Avramopoulos, che è il commissario europeo, ha detto che la crisi umanitaria raggiunge il suo culmine in Grecia e gli stati membri devono accettare con urgenza i ricollocamenti. Sono 500 le richieste di ricollocamenti dalla Grecia che ancora non hanno ricevuto una risposta dagli stati membri. I paesi devono farsi avanti per rispondere, invita la Commissione europea. Il Parlamento di Madrid nel frattempo ha bocciato l'accordo tra Unione Europea e Turchia, quello siglato la settimana scorsa, bisognerà rivedersi il 17-18 marzo, quello in cui la Turchia sostanzialmente ha detto non voglio più 3 miliardi ma ne voglio 6, senza che si sia riuscito a non dico a imporre, ma a ottenere, a chiedere una maggiore democrazia in quel paese dove insomma hanno perfino chiuso manu militari ma manu amministrativa, l'unico giornale di opposizione, cancellando consiglio di amministrazione, direttore e quant'altro. Se questo è rispetto per la libertà di stampa, non ci siamo. Comunque, a Madrid il Parlamento ha bocciato, è la prima volta tra l'altro che la stragrande maggioranza del Congresso rifiuta un accordo siglato dal governo spagnolo in seno all'Unione Europea, hanno votato a favore solo il Partito Popolare. Effetto Draghi sui titoli di Stato italiani, oggi in asta i BTP a 3 anni, che per la prima volta va a rendimento negativo, quindi meno 0,05%, assegnati tutti i 7 miliardi e mezzo, a fronte di una domanda che ha superato i 10 miliardi, a dimostrazione che in questo momento la liquidità va sui titoli di Stato, per carità, ma non va da altre parti. Rendimenti negativi vuol dire che sostanzialmente si accetta di perdere in valore reale pur di sottoscrivere debito italiano a 3 anni. Ancora positivo quello del BTP a 7 anni, che però scende dall'1% allo 0,79% di rendimento lordo. E pensate un po', addirittura anche prestare soldi all'Italia per 15 anni, insomma, rende dal 2% all'1,80%, adesso è sceso dal 2% il rendimento lordo all'1,80%. Quindi vuol dire che ci sono investitori che accettano di comprare debito italiano con scadenza fra 15 anni con un rendimento lordo dell'1,80%, che obiettivamente, se devi pensare a 15 anni, è vero che siamo in deflazione, però è basso, basso, che è una buona notizia per noi. E l'altro dato oggi positivo, e questo è un dato veramente positivo, l'invito è sempre stato a non tifare contro l'Italia, comunque non la pensi sul governo, sul Presidente del Consiglio, ma non si può tifare contro l'Italia. E quindi se la produzione industriale a gennaio fa un balzo e cresce di quasi il 2% rispetto a dicembre e di quasi il 4% rispetto a gennaio 2015, è un buon dato e basta. A mio avviso è il risultato tra l'altro migliore nella produzione industriale da agosto 2011, con crescite in tutti i comparti. Chiaramente il traino grosso arriva dall'industria dell'automobile, che ha fatto più 20% a gennaio, e la fabbricazione di mezzi di trasporto e in generale il settore di attività economica che registra il maggiore incremento tendenziale, quasi più 11%. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Solo alcuni giorni fa l'Istat ha previsto una crescita piuttosto modesta per la nostra economia nel primo trimestre del 2016, con un incremento del PIL inchiodato a un più 0,1%. Oggi però, sempre dall'Istat, arriva un dato per certi aspetti inatteso e che apre qualche prospettiva in più sul consolidamento della crescita. A gennaio la manifattura italiana ha registrato un buon risultato. La produzione industriale è cresciuta su base annua del 3,9%, trascinata in particolare dalla produzione di beni strumentali. È uno scatto in avanti che trova conferma anche su base mensile, con un aumento dell'1,9%. Anche in questo caso con un andamento positivo diffuso a molti settori. Va aggiunto che si tratta della migliore performance dell'indice della produzione industriale da quasi 5 anni, dall'agosto del 2011. Ancora una volta a fare da traino è il settore dei mezzi di trasporto, con l'auto in particolare, che su base annua fa una crescita di oltre il 20%. Bene, naturalmente la domanda che a questo punto tutti si fanno è se questo buon andamento, questo buon risultato, si rifletterà sulla crescita del prodotto interno lordo. Il segnale di oggi è sicuramente un segnale incoraggiante, ma per dare sostanza alla ripresa, la crescita di gennaio della produzione industriale dovrà trovare conferma anche nei prossimi mesi, dove per ora si segnalano invece aspettative contrastanti. Per esempio, il centro studi di Confindustria indica per febbraio una crescita limitata allo 0,1%, troppo poco per dare forza alla ripresa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. La classifica della settimana. Allora, partiamo con la nostra poco invidiabile classifica, con un dato che potrebbe riassumere le classifiche anno per anno, quindi perché la facciamo? Alcuni ci scrivono, mamma mia, questa classifica non se ne può più, boh, bisognerebbe capire se uno ha un interesse nello scriverlo, però per non farlo dire a noi, lo ha detto il tenente colonnello Roberto Di Resta del reparto operazioni della Guardia di Finanza, al microfono della nostra Raffaella Calandra, ha stimato quanto truffe, sprechi, evasione pesino sulle casse dello Stato provocati da reati fiscali di vario genere. È emerso nel rapporto annuale della Guardia di Finanza, per carità. E da questo punto di vista, cioè, il dato è impressionante: 4 miliardi di euro di danni alle casse dello Stato. Due macro aree. La prima è il contrasto alle grandi frodi, l'illegittima percezione di finanziamenti pubblici sia nazionali che comunitari. La Guardia di Finanza ha scoperto casi di legittima percezione per oltre 1 miliardo di euro. A questo si affianca gli sprechi, l'irregolare gestione dei fondi pubblici che hanno portato dei danni per 4 miliardi di euro. A questo si somma naturalmente anche un'attività che viene fatta sui cosiddetti ladri di welfare. Un altro dato che è sconfortante, che è quello dell'aumento degli evasori. Tutte le riforme anche che sono state fatte ultimamente in campo tributario sono rivolte proprio a un rispetto delle regole. Diciamo che da parte dei contribuenti si cerca sempre di trovare delle strade, diciamo, parallele, come se ancora potesse essere furbi convenisse. Ancora molti, troppi appalti vengono assegnati non per vie lecite. Un appalto su tre che presenta delle irregolarità. Un appalto su tre, sarà un caso, ma proprio oggi i militari della Guardia di Finanza hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Roma nei confronti di 19 persone tra dirigenti e funzionari dell'ANAS. Oh, Ciucci non è responsabile di tutto, però insomma, qua sta emergendo un verminaio, insomma. Questo nell'ambito dell'inchiesta scattata a ottobre dell'anno scorso sulle mazzette dell'ANAS. La seconda tranche di arresti è scattata anche in seguito alle ammissioni della famosa Dama Nera, la dirigente Antonella, che noi, insomma, ci fu anche un perché Dama? Una che ruba così non la devi chiamare Dama, Nera sì, ma un'altra cosa. La dirigente Antonella Accrogliano, numerose le perquisizioni, sequestrati beni per 800.000 euro, coinvolti anche un avvocato e il parlamentare di Forza Italia Marco Martinelli. Di fronte a questo la nostra classifica impallidisce, ma noi continuiamo a farla comunque e partiamo da un caso sempre di cronaca, e mi riferisco al sindaco di Maddaloni, Rosa De Lucia. Allora, praticamente lei aveva un bancomat personale fatto di carne e ossa, cioè ritirava almeno 10.000 euro al mese, più denaro per viaggi come quello ad Antibe, perfino contante per arredare la casa, soldi che le venivano forniti dall'imprenditore Alberto Di Nardi, a cui lei in cambio garantiva il servizio di raccolta dei rifiuti. E questo è andato avanti per anni, lo scopre l'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere sul comune di Maddaloni, in provincia di Caserta. 5 le ordinanze di custodia cautelare, 2 in carcere, 3 ai domiciliari. Tangenti tascate per affidare ciclicamente il servizio di raccolta rifiuti sempre alla stessa ditta. Hanno arrestato anche l'assessore Cecilia Danna, il consigliere Giuseppina Pascarella è appunto l'imprenditore. Si parla di corruzione sistemica che ricorda la Tangentopoli casertana del 92. Cos'è successo? Praticamente il Di Nardi era un bancomat in carne ed ossa per la De Lucia. Lei ogni volta che aveva bisogno di soldi chiedeva a lui. Dopo la denuncia di una ditta concorrente iniziano però i pedinamenti e Di Nardi viene fermato a un finto posto di blocco con in tasca 5.000 euro. E qui iniziano le spiegazioni, sono per le bollette, 5.000 euro in contanti per le bollette, io capisco la versione per le vecchiette al banco, ma mi sembra un po' tanto. Soldi erano chiaramente destinati al sindaco, in altre occasioni infatti Di Nardi avrebbe sponsorizzato progetti della giunta e pagato circa 500 euro per varie iniziative. L'azienda dell'imprenditore risulta con 300 dipendenti sparsi tra vari comuni, si occupa di servizi ecologici, però la cosa interessante è che, nata 5 anni fa, ha già fatto incetta di appalti con continue proroghe e rinnovi contrattuali. Nonostante la prefettura di Caserta avesse richiamato la De Lucia e l'aveva invitata a fare una gara d'appalto, non è mai successo e sostanzialmente Dinardi pagava per mantenere il servizio. Gli hanno sequestrato i carabinieri 1 milione di euro. Altro tema, la reggia di Caserta. Allora, anche qui sono temi molto diversi, però mi fate capire com'è possibile che al di là delle polemiche assurde, allucinanti, indicibili dei cosiddetti sindacalisti, dei dipendenti della reggia di Caserta, dico cosiddetti perché ho massimo rispetto per i sindacalisti veri, per chi cerca di fare gli interessi dei lavoratori, capendo anche le ragioni di un'impresa, cercando di capire insomma come si possono mantenere i posti di lavoro. In questo caso non sono sindacalisti, sono diciamo persone che puntano solo al mantenimento dei privilegi dello status quo. Allora, però c'è e lì la polemica fu perché il direttore si fermava in ufficio oltre l'orario di lavoro mettendo a repentaglio la sicurezza, insomma, di balle colossali. Però sta emergendo anche altro, quindi bene hanno fatto i sindacati a beccarsi sto boomerang, così vediamo di capire come funziona la reggia di Caserta, i sindacalisti, quelli della reggia. Ci sono le ville nel parco del Vanvitelli, come la reggia, però assegnate ad ex dipendenti della struttura museale o a loro eredi, una dozzina in tutto, pagano, non sto scherzando, tra i 5 e i 15 euro al mese di affitto, ma hanno tutti ragione, come capita sempre in questo paese in questi casi. Sono esentati dal pagamento della corrente elettrica, dell'acqua e della spazzatura, hanno a disposizione giardini per le loro feste private, case assegnate dalla fine degli anni 90 nella zona del Bosco Vecchio del parco, sono circa 3 km per 120 ettari di superficie. È in corso un'inchiesta della Corte dei Conti condotta dal PM Ferruccio Capalbo, però quella parte del parco reale tra l'altro ha scarsi servizi e ha una limitata sorveglianza, per cui su 15 addetti per ogni turno, pensate che io capisco il problema dei dipendenti della reggia di Caserta di fronte a un direttore che lavora, perché quando tu scopri che su 15 addetti per ogni turno in media 5 sono assenti, 5 su 15, per malattia o permessi, e gli altri devono utilizzare le proprie auto per controllare l'area, ti rendi conto perché stia sulle scatole questo direttore della reggia di Caserta, 5 su 15. Allora, voglio dire una cosa, i sindacati che hanno fatto quel comunicato delirante vogliono non farci credere che difendono i fancazzisti? Bene, facciano un comunicato duro e forte che vada a verificare come mai il 33% della forza lavoro alla reggia di Caserta o in malattia o in permesso, perché questo è inaccettabile per gli altri lavoratori. Vogliono difendere i lavoratori? Ci aspettiamo dalla RSU di base un comunicato proprio su questo, su come mai ci sono 5 assenti per malattia o permessi ogni giorno. Dopo il meteo, terzo, secondo e primo posto. Focus Economia. Allora, vedo che qualcuno dice, ma sì, basta con questa classifica. Cos'è che mi ha scritto un ascoltatore? Vabbè, bisogna capire perché non vi piace la classifica, perché vi deprime o perché vi dà fastidio a quelli che lo scrivono. Vabbè, andiamo al terzo posto, vediamo se questo può interessare anche chi la trova non così interessante. Questa vicenda è bellissima e mi riferisco ai mitici forestali siciliani. Allora, cosa succede? Succede che il presidente della regione Sicilia, il governatore Rosario Crocetta, chiede a fine 2014 di verificare i carichi pendenti e il casellario giudiziario di tutti gli addetti forestali. Quanti sono? Beh, so che la cifra fa spavento, 25.000, sono spesso lì da tantissimi anni, lavoro nei boschi, nelle campagne siciliane. Faccio notare che 3 settimane fa questa poco invidiabile classifica si è occupata del caso di Siracusa, in cui non si riescono a tenere aperti i musei perché mancano le persone. Allora, in una regione che ha il tasso di disoccupazione della Sicilia, che ha i forestali che ha la Sicilia, io non dico che tutti i forestali possono andare a fare ma voglio dire, devi anche ricollocare le persone. Ce ne sarà qualcuno che è in grado di stare in una biglietteria riqualificato con un corso e lasciare aperti i bellissimi siti archeologici di Siracusa? Domanda. Comunque, la cosa è semplice. Chiede Crocetta di verificare i carichi pendenti e il casellario giudiziario di tutti gli addetti forestali. Trascorso un anno, lo scorso novembre, l'ex dirigente generale del lavoro, Anna Rosa Corsello, consegna un primo dossier sul tavolo del presidente della regione, dal quale risulta che tra i forestali, io rido perché non so come prenderla questa, ad avere condanne penali sono in 3.500. Dovevi fare il test al contrario. Chi non ha condanne penali tra i forestali? Ma la cosa interessante sono i reati, perché uno può avere una condanna penale magari anche per guida in stato di ebbrezza, poi succede. No, i reati sono bellissimi. 1.000 hanno sentenze per reati contro il patrimonio, cioè tu devi difendere il patrimonio forestale e hai una sentenza di reato contro il patrimonio, che è come affidare un gregge al lupo di Cappuccetto Rosso. Altri per incendio doloso, ma siccome l'incendio non è mai un problema nei parchi e nei boschi italiani, giustamente 200 hanno proprio una condanna per incendio doloso, in modo che sono già pronti, li hanno formati prima. Ancora, altri 200 reati contro la pubblica amministrazione, 600 contro la persona e altri centinaia contro l'amministrazione della giustizia. Ma la cosa più bella è che ce ne sono almeno 50 condannati per il 416 bis, quindi condannati per mafia, mai cancellati dagli elenchi, che una volta scontata la pena sono stati richiamati al lavoro. Ma voi immaginatevi i forestali siciliani onesti che si vedono ritornare 50 mafiosi condannati al 416 bis al lavoro, no? Forse si tratta di know-how, come dicono gli americani, quello che sa gestire la mafia, quello che sa incendiare, quello che sa fare reati contro il patrimonio, quello che sa fare reati contro la persona, cioè insomma gli skills sono vari. Andiamo al secondo posto, ma tutto questo immagino che annoi qualcuno. Andiamo al secondo posto, qui è una bella lotta, perché al secondo posto abbiamo le ferrovie del sud-est, cioè quelle che dovrebbero collegare, diciamo, la Puglia. Allora, nonostante su alcune tratte girino ancora mezzi degli anni 50, nell'ultimo decennio hanno speso per investimenti le ferrovie del sud-est quasi 1 miliardo. Tra l'altro è una cifra enorme che è arrivata grazie ai contributi statali e ai fondi comunitari, soldi per rinnovare i binari, l'elettrificazione e la riduzione del rumore. Beh, questo è bellissimo. Sulla riduzione del rumore adesso vi racconto una cosa. Comunque, la cosa interessante non è solo aver speso 1 miliardo senza che i passeggeri vedano tutta questa differenza, visto il parco rotabile. La cosa interessante è che la grande parte dei progetti e delle direzioni dei lavori è stata affidata sempre e solo ad un unico studio. Il titolare è l'ingegnere del Salento Vito Antonio Prato, che con la Sud-Est lavora da sempre. Nell'ultimo decennio ha incassato parcelle, non sto scherzando, per 54 milioni di euro. Deve essere il migliore di tutto Salento, di tutta la costa adriatica. Ora, tutto legale, perché gli incarichi, anche oggi che il commissario della Sud-Est Viero ha decapitato la direzione investimenti, gli incarichi di Prato sono tutti stati attribuiti con affidamento diretto e sono formalmente legittimi, quindi non c'è nessuna procedura di evidenza pubblica, ma sono legittimi, anche se le cifre appaiono abbastanza proporzionate rispetto all'importo, per cui non c'è una cifra enorme rispetto a quello che dovevi fare. È singolare che per fare qualunque lavoro su queste tratte ferroviarie ti affidi per 10 anni sempre solo ad un unico ingegnere. Ma che c'è solo un ingegnere che sa fare queste cose in tutta la Puglia? È sempre come affidamento diretto. Prato ha progettato per esempio quasi tutti gli interramenti dei passaggi a livello effettuati negli anni sulla linea del sud-est, si è occupato anche della direzione dei lavori di progettazione e dell'elettrificazione della linea Bari-Taranto, è un intervento tuttora in corso e che grazie a 100 milioni di euro di fondi statali potrebbe essere esteso anche alla linea del Salento. Ci sono anche incarichi alla direzione dei lavori per l'installazione lungo tutta la rete di sistemi a particolare valenza ambientale. Cosa sono? Sono le famose barriere antirumore, quelle che vedete anche, non so, chi viaggia in autostrada vicino all'alta velocità, per evitare il rumore nei centri abitati. Costano, hanno speso 15 milioni di euro nelle ferrovie pugliesi per mettere queste barriere antirumore. Sono strutture in legno, pietra e terreno che dovrebbero svolgere, leggo testualmente, la stessa funzione delle barriere fonoassorbenti utilizzate ai margini delle strade e quindi ridurre il rumore al passaggio dei treni. Ecco, l'unica cosa che non capisco, ma vi lascio con questo dubbio, è, a parte il fatto che oggi la gran parte di queste strutture è semidistrutta, addirittura in alcuni punti della rete sporgono sui binari costringendo i treni a rallentare, quindi oltre che antirumore sono anche antivelocità, in altri casi il legno che doveva essere impermeabile, io non ho capito perché l'abbiano fatto in legno, pietra e terreno, magari è un trullo o una struttura antirumore, comunque il legno è stato distrutto dall'acqua, il pietrisco si è disperso, tutto normale, no? Il legno si distrugge con l'acqua, il pietrisco si disperde, cos'era l'altro elemento? Il terreno risulta non pervenuto, ma anche lui non starà molto bene. Adesso servono milioni di euro per risistemare le barriere antirumore, però la cosa più bella è che le hanno messe dappertutto, le hanno messe anche in aperta campagna. Ora io chiedo sommessamente, non sono un ingegnere ferroviario, ma che cavolo fa una chilometri e chilometri di barriere antirumore in mezzo alla campagna? Ma chi è che non deve disturbare? I passerotti, le talpe, non so, le mucche, le capre, cioè a chi servono chilometri e chilometri di barriere antirumore, che tra l'altro si sono sfaldate, diciamo, come neve al sole, anche se in Salento non è l'esempio più giusto. Traffico. Focus economia. And the winner is la bretella di Milano, così chi dice sempre col sud ce l'avete. No, il sud fornisce buoni spunti, mettiamola così. Però, da ottobre una bretella che è costata 20 milioni di euro è praticamente finita. Tant'è che i due famosi cantanti Jay Axe ed Elio Storetese ci hanno girato il video, mi guarda il tecnico di legge, cantanti, insomma, rapper. Un video della loro La Tangenziale, insomma mancano solo i cartelli e la cosa era pronta. Di cosa stiamo parlando? È quella tangenziale est esterna, detta anche TEM, TEM meno se continua così, perché è la tangenziale est esterna inaugurata meno di un anno fa. Sono 20 milioni di euro spesi per tagliare fuori Melegnano dal traffico pendolare e quindi adesso la faccio molto semplice, alleggerire tutto il traffico che poi invece da sud entra a Milano. Quindi questo è un'operazione importante, l'abbiamo sentito parlare molte volte assieme alla Pedemontana e appunto la TEM. La strada è un collegamento tra due provinciali in realtà ed è stata voluta assieme alla nuova superstrada che collega la A4 e la A1. È bloccata. C'è un insieme di ritardi e rimpalli allucinanti. Mancano, sapete quanto mancano su 20 milioni spesi e 3 chilometri e 300 metri di viabilità già realizzata? Mancano 100 metri, altro che l'ultimo miglio. Qua in Italia siamo all'ultimo metro e mancano 100 metri e una rotonda. Ma io dico, ma gliela facciamo noi? Non si può completare senza l'autorizzazione di Autostrade per l'Italia, che ha competenza su questa tratta. Secondo il costruttore della TEM, la responsabilità è della latitanza da mesi di Autostrade per l'Italia. Secondo altri invece se l'è presa comoda perché la Brebemi è concorrente da Brebemi, che è quella che fa Brescia, Bergamo, Milano, è concorrente della A4, di cui l'ASPI è concessionaria. L'ASPI replica di essere in attesa della bozza di convenzione accettata da tangenziale esterna e dalla città metropolitana per procedere all'invio della stessa al concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per richiedere la preventiva approvazione. È anche vero che la stessa bozza è stata inviata alla TEM solo 2 settimane fa. Insomma, per farla breve, la strada è ancora bloccata. Diteci cosa bisogna fare. Tra l'altro non è l'unico caso, perché c'è anche in stallo la bretella da 1,5 km tra la Binasca e la Cerca, 25 milioni di euro di spesa, e ce ne sono altre. Diteci cosa bisogna fare in questo paese per fare gli ultimi 100 metri e una rotonda. No, guardi, chi ci scrive, attenzione, non è la tangenziale, è la bretella che sfocia in un campo, lo dico, attenzione, come mi scrive, ma io la faccio tutti i giorni. No, lei fa l'altra, non faccia questa, perché se la fa fino in fondo arriva in un campo, magari dove ci sono anche le barriere antirumore pugliesi, non lo so, ma non arriva da nessuna parte. Mancano gli ultimi 100 metri e la rotonda. Allora, chi si rimbocca le maniche e lancia imprese in questi anni di crisi, lancia attività in questi anni di crisi, lo usiamo come Prozac, posso usare e fare pubblicità, come antidepressivo dopo la classifica. Allora, Alberto Fioravanti, fondatore e presidente esecutivo di Digital Magics, buonasera. Buonasera. Ora, voi siete una startup, per modo di dire, siete no. Esatto, perché questa volta voi siete un incubatore di incubatori, ho capito? Bravissimo. Siamo in realtà un business incubator. Mm. Aiutiamo le startup a crescere nella fase seed, quella iniziale, quando c'è un progetto. Fioravanti ha esaurito il numero di inglesismi possibile, quindi adesso da in avanti tocca parlare solo italiano. Va bene, allora aiutiamo giovani talenti che hanno un bel progetto e vogliono creare un'azienda. E andiamo a cercarli, 1500 progetti ci vengono presentati ogni anno e ne incontriamo un centinaio e circa una ventina all'anno vengono selezionate per entrare nel nostro portfolio, nel nostro diventiamo soci di queste aziende e facciamo con loro il primo pezzo di percorso che prevede che arriviamo a presentare un bel business plan grazie anche alla nostra collaborazione e iniziare il primo pezzo di incubazione vera e propria con un po' pezzo di finanziamento, con un, diciamo, un primo, una prima raccolta che l'azienda fa e che consente di fare. Quando siete nati come Digital Magics e soprattutto allora, le caratteristiche di chi aiutate? Perché insomma allora, il timore che uno aiuti chi ha già, è già ben messo in questo paese c'è. No, allora, noi siamo nati nel 2004 ed abbiamo fondato con Enrico Gasperini e altri imprenditori questa azienda proprio con l'intenzione di aiutare altri talenti a riuscire a fare quello che abbiamo fatto noi nel passato. Noi abbiamo quotato la nostra azienda nel 2000 nuovo mercato, quindi abbiamo detto adesso è ora di aiutare altri nuovi talenti giovani a far crescere le loro aziende. Dal 2008 ci siamo focalizzati, abbiamo capito che l'Italia aveva bisogno di qualcuno che aiutasse le aziende nella fase seed e ci siamo concentrati su questo. Allora, Fioravanti, resti con noi. Volevo solo sapere quante ne avete aiutate finora di startup, di nuove iniziative e quante oltre ne avete 60. In progetto? Oltre 60 e quante? Ne abbiamo attualmente a portafoglio 52. Poi dopo GR24 vorrei capire le caratteristiche di questi imprenditori in erba, nel senso che non se la fumano ma sono giovani e quindi hanno voglia di fare e se li scegliete anche per età, se devono avere un patrimonio, cioè quali sono le caratteristiche per cui voi dite bene, io aiuterò questa idea che per la startup altro non è un'idea di impresa. Dopo il GR24 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi faremo anche la borsa più 4,80% si accolgono in ritardo di Mario Draghi e Giulio Sapelli su quello che resta o rischia di restare di un'Europa incapace di decidere tra coloro che sono sospesi. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. L'Europa al bivio greco con Radio 24 nel cuore della crisi. Dal 7 al 12 marzo, Radio 24 vi accompagna in un viaggio nel paese che più di tutti racconta la profonda crisi dell'Europa contemporanea. Immigrazione e scontro con Bruxelles, crisi economica e occupazionale, crisi di identità di un paese che si riflette sull'intero continente. Dai Domeni, dove migliaia di migranti premono alle porte della fortezza Europa, fino ad Atene, dove il governo cerca i mezzi per sostenere un'economia in ginocchio. Radio 24, con i suoi inviati, i suoi conduttori e gli esperti in studio, percorre le strade della Grecia per cercare di comprendere il cammino dell'Europa. Focus Economia. Allora, Alberto Fioravanti, fondatore e presidente esecutivo di Digital Magics, come scegliete le nuove imprese, cosiddette startup da aiutare, visto che ne avete aiutate 60, ne avete 52, se ho ben capito, in portafoglio, e quante reggono? Perché insomma, nessuno ce la fa il primo colpo. Negli Stati Uniti, se uno non fallisce almeno una volta, non è un vero imprenditore. Da noi la mentalità è un po' diversa, per cui è inutile dire non tutte vanno poi a compimento. Ma quante vanno a compimento e come le scegliete? Cominciamo da dire come le scegliamo. Allora, la caratteristica può sembrare strano, ma non è l'idea, ma è l'idea più il team. Quindi valutiamo molto bene se la startup ha dietro un team che ha esperienze eterogenee, quindi magari sicuramente un esperto di tecnologia, ma ci vuole anche qualcuno che ha fatto un laureato in economia e commercio, qualcuno che ha fatto un'esperienza di marketing, e il più è rotondo e più è interessante, proprio perché servono tante competenze e l'insieme di queste per portare avanti un'idea. L'età e il capitale già presente è una discriminante? No, no. Direi di no, ci sono esempi di start-up fatte da ragazzi di 20 anni, come anche di quarantenni che hanno deciso di lasciare il loro primo pezzo di esperienza lavorativa per fare la loro startup e portare avanti il loro sogno. Quindi io presento una mia idea, un mio progetto, sì. Vengo analizzato, dopo quanto mi date una risposta, che aiuto mi date concreto e cosa ci guadagnate? Prima devo dire anche che una delle caratteristiche che dovrebbero avere queste startup è di volere conquistare un territorio che non è solo l'Italia, ma che voglia andare almeno in Europa. Quindi un progetto che possa scalare territorialmente, questo perché il mondo dei finanziatori, dei venture capital, che poi seguono, arrivano dopo il nostro aiuto, sono molto focalizzati su imprese di questo tipo, che vuol dire saper parlare bene inglese, presentarsi bene all'estero, magari avendo vissuto un'esperienza di studio in un'altra nazione. Questa è una delle caratteristiche. Poi, che cosa gli fornite e quanto ci guadagnate? E allora, noi cerchiamo di capire che cosa ha bisogno, dove è più debole questa startup. Diciamo che gli forniamo consulenza, che può andare, ha bisogno di consulenza strategica, di consulenza di business, commerciale, e andiamo a capire quello che, a partire dal loro primo PowerPoint di questo progetto, serve per essere rotondi e avere una possibilità di finanziamento. Noi come ci guadagniamo? Diventiamo soci di queste startup, abbiamo un modello per cui il nostro lavoro ci viene pagato in realtà, perché diventiamo soci, ci sentiamo fondatori, quasi certe volte cofondatori di queste società, e il nostro modello prevede che guadagniamo quando ci sono le exit, nel momento in cui, crescendo la società, arriva un bel momento in cui qualche azienda è interessata a un'acquisizione o vanno sulla borsa. Un'ultima domanda, Fioravanti, mi scusi, ma i soldi glieli mettete voi perché siete quotati e avete cassa, o facilitate il credito bancario? No, diciamo che abbiamo nella nostra storia raccolto oltre 30 milioni di euro. In realtà 18 li abbiamo messi come Digital Magics, e circa 11 o poco più di 11 sono stati in realtà attirati da coinvestitori, perché poi le startup fanno dei club deal e cercano business angel, family office, imprenditori che, entusiasti di questo settore, si innamorano dell'idea e credono in queste startup. Allora, grazie, in bocca al lupo non solo a lei, ma a tutti le 52 che avete ancora in portafoglio, e a tutti i giovani, non giovani, l'età non è così rilevante, che presenteranno nuove iniziative. Andiamo adesso nel ringraziare Alberto Fioravanti alla borsa e poi all'uccellaccio Giulio Sapelli. Borse col botto, oggi si sono accorte di Mario Draghi con un po' di ritardo, il FTSE MIB sfiora i 19.000 punti, 18.987 più 4,80%, ma a dimostrazione che non sono solo le banche italiane ad avvantaggiarsene, che ne dicano l'IFO tedesco e le Sparkasse tedesche, le casse di risparmio. Molto bene anche Francoforte, più 3,50%, Parigi più 3,30%, invece Londra, che non è inclusa dalla mossa di Draghi, guadagna solo l'1,70%, grazie anche a un Dow Jones che guadagna l'1,25%. Sulle banche poco da dire oggi, più 9,46% Unicredit, più 9,40% anche Popolare di Milano, più 9,20% UbiBanca, più 9,12% Banco Popolare, più 8,70% Mediobanca, più 8,70% anche il Monte dei Paschi. L'8% lo guadagna Anima Holding, ma anche la Popolare Emilia Romagna. Il 7,5% è il rialzo di Intesa San Paolo, il 7,20% quello di Generali e di Saipem. Finmeccanica più 6,90%, Unipol più 6,70% e Unipol 6 pure. Vado avanti con A2A più 6,50%, Exor più 6, Telecom Italia più 5,5% come le Poste Italiane, Fiat Chrysler più 4,40%. Il petrolio in rialzo oggi, anche oggi livelli massimi da 3 mesi, fa crescere anche Eni più 2,94% e in parte anche Enel più 2,70%, Tenaris appunto più 3,55%, negativa solo Italcementi meno 0,80% e più al palo il lusso con Yux Net-a-Porter invariato, Luxottica più 0,6%, Moncler più 1,20%, Ferragamo più 1,60%, Campari più 1,40%, Tod's più 1,60%. Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Sebastiano. Lasciamo stare le banche, vedendo questo è l'effetto del bazooka ritardato, da quello che abbiamo capito. Però andiamo su Finmeccanica e Telecom, perché su Telecom c'è notizia, nel senso che poco fa Vivendi ha annunciato, il colosso francese, di essere salita al 24,9%, appena sotto la soglia dell'OPAD, che obbligherebbe a offrire la stessa cifra a tutti gli azionisti, l'offerta pubblica di acquisto. Finmeccanica e Telecom. Esattamente, iniziamo da Telecom. Già questa mattina, già da ieri, insomma, si giravano le indiscrezioni riportate oggi dai giornali su un ulteriore rafforzamento di Vivendi, cosa che è stata confermata con il comunicato, e questo si aggiunge alle indiscrezioni che da tempo coinvolgono Vivendi, quindi primo azionista di Telecom, con Mediaset, i contatti con Mediaset, e quindi che potrebbero eventualmente coinvolgere un riassetto ad ampio raggio tra telefonia e media. Ma su Telecom si aspettano anche per la prossima settimana una dismissione importante, cioè le offerte finali per le torri di trasmissione del segnale televisivo che sono raccolte nella controllata di Telecom Inwit. Per quanto riguarda Finmeccanica, il rialzo vicino al 7% di oggi si spiega soprattutto con l'ottimismo, con indicazioni molto positive arrivate ieri dall'amministratore delegato Mauro Moretti in vista dei conti della prossima settimana. Ha parlato di conti molto positivi, pur non anticipandone i dettagli numerici, e soprattutto di una possibile sorpresa per quanto riguarda le prospettive, le proiezioni dei numeri del 2016, e il mercato ha scommesso su questo in una giornata ben orientata un po' per tutti i settori, anche per quello industriale che magari è stato meno oggetto di acquisti rispetto a quelli finanziari. Allora, migliori e peggiori, banca intermobiliare più 10,60%, poi tutte le banche che ho citato sono anche tra i migliori in assoluto, tutte, aggiungo Cassa di Risparmio di Genova più 8,30%, i peggiori invece IMSI meno 5,80%, Full Six meno 5,70%, Safebag meno 5,60%. Grazie Andrea Fontana e buon fine settimana ai colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore, settimana che si chiude con l'ultima parte di Focus Economia, chiaramente settimana tutta all'insegna della decisione di ieri di Mario Draghi, ma anche del blocco, se vogliamo, delle frontiere della rotta balcanica, che abbiamo raccontato con la nostra inchiesta sulla rotta dei migranti, e quindi il tema è l'Europa che fa, ne parliamo, che può fare, che sa fare, ne parliamo con l'uccellaccio Giulio Sapelli dopo il traffico. Focus Economia. Allora, vediamo se riesco a far atterrare il nostro uccellaccio su, diciamo, la nostra vita molto molto terrena. C'è da un lato un'Europa che abbiamo raccontato, ahimè, con le nostre inviate ad Atene e al confine, ai domeni, al confine con la Macedonia, che prende atto della chiusura delle frontiere austriaca, slovena, croata e poi serbe, macedone, lascia la Grecia isolata, i soldi arrivano con il contagocce, una Grecia che è comunque in ginocchio per le riforme che ha chiesto la Troica, ma è molto prona con la Turchia, con l'ottomano, col sultano Erdogan, che alza la posta, da 3 miliardi ne chiede 6 di miliardi per tenere in Turchia i profughi in primo luogo siriani, senza che abbia il coraggio l'Europa stessa di chiedere alla Turchia una maggiore democrazia o l'inizio di una maggiore democrazia. Dall'altra parte c'è sempre un'Europa che è ossessionata solo dai deficit contabili, che manda le lettere perché, attenzione, i decimali sul deficit si scostano da quanto annunciato, e c'è un'Europa, o meglio una banca centrale europea, che continua con il famoso bazooka di Draghi. Viene attaccata dalle sparcasse tedesche, dalle casse di risparmio territoriali, salvate a più riprese dal governo tedesco, perché qualche problemuccio di rapporti col potere locale c'era anche lì. Non piace ai tedeschi, ma fa notare Draghi che senza i suoi interventi chissà dove saremmo in deflazione. La sensazione che abbiamo è che Draghi continua a giocare una partita a tennis, però dove manca l'avversario, ossia c'è un muro e la palla torni sempre nel suo campo, con il paradosso che qua, se l'Europa non mette un'altra gamba in queste misure, il piano di Draghi rischia di fallire e daremo la colpa a Draghi, quando invece l'insipienza, l'essere ignavi tra coloro che sono sospesi è dei tecnici poco politici europei che non riescono a utilizzare la massa di denaro che Draghi sta fornendo per far ripartire gli investimenti in Europa. La domanda è: dov'è l'Europa? Chiedo all'uccellaccio Giulio Sapelli, docente di storia economica alla Statale di Milano, da sempre non amico di Draghi, se è d'accordo con la mia ricostruzione oppure è troppo amica, diciamo, della BCE. Sapelli, buonasera. Buonasera a lei, caro Barizoni. Naturalmente non atterro, ma continuo a volare a bassa quota, per tanto che mi consenti di vederla. Stia attento, perché gli uccelli che volano a bassa quota si chiamano in un altro modo. No, a Voltoi. No, si chiamano paduli, però. Ma questi non mi spaventano, queste faccenze popolari. Il problema è che quello che lei ha descritto è naturalmente ciò che capita. Naturalmente, caro figliolo, io la seguo da anni, lei è un buonissimo osservatore, ma il problema manca l'analisi. Perché è successo questo? Come mai sta succedendo? Mi sta dando del mona un po'. Cioè, assolutamente no, perché poi se lei desse delle soluzioni analitiche immediate, i suoi ascoltatori si annoierebbero. Però sono perfettamente d'accordo con la sua descrizione, sono soprattutto d'accordo con un punto, che Draghi non può trasformarsi da Arcangelo San Michele adesso in Cavaliere dell'Apocalisse, come vedo sui giornali internazionali, dove è sottoposto ad un attacco incessante come quello che non riesce a fare ciò che dovrebbe fare. In primo luogo c'è da dire due cose. Lei ha descritto chiaramente un disegno che abbiamo già visto nella storia, prima della Prima Guerra Mondiale e poi, ahimè, anche prima della Seconda, proprio dal punto di vista economico, soprattutto prima della Prima Guerra Mondiale. Cioè c'è un disegno neoimperiale in Europa, sull'Europa, perseguito dalla Germania, che ha queste stesse caratteristiche. Allora naturalmente la Turchia prima della Prima Guerra Mondiale non esisteva, ma c'era l'Impero Ottomano, ma era questo: accordi con l'Impero Ottomano attraverso la penetrazione economica, trattative e tentativo di creare un blocco di stati subalterni, imponendo loro una politica che favorisse la creazione, lo sviluppo, le esportazioni tedesche. È sempre andato avanti così. Per far questo cosa bisogna fare? Ridurre una schiavitù monetaria gli stati vicignori, fare in modo che abbiano bassi salari, domanda interna minima, salari di fame, appunto, beni di lavorazione, beni intermedi che vanno all'industria tedesca con costi bassissimi, surplus commerciali. Questo è successo nel prima della Prima Guerra Mondiale, è successo dopo, è successo tra le due guerre, è successo anche naturalmente adesso, dopo il 1952, quando la Germania è stata di fatto svincolata dal controllo degli alleati e poi dopo ha avuto il suo pieno inveramento con l'unificazione con Kohl. Il problema è sempre lo stesso, c'è, questa è una cosa che gli storici seri hanno studiato molto a lungo, soprattutto gli storici americani, cioè la Germania ha una pulsione euroasiatica e non atlantica. Non gliene importa nulla dell'alleanza con gli Stati Uniti, perché appunto una politica fondata soltanto sull'esportazione e non sull'aumento delle domande interne in Europa, nell'Europa che la circonda. Questo a che cosa conduce? Conduce già delle cose che abbiamo visto: la Merkel che va dai cinesi, denuncia gli americani che la spiano da Pechino, l'America da cui non importa nulla la questione dell'unità dell'Europa e naturalmente disgrega l'Unione Europea scacciando in un angolo gli Stati del Sud, perché lei parla della Grecia, ma anche noi abbiamo avuto dei costi enormi, sociali, morali, umani per gli immigrati, lei l'ha descritto molto bene, questi servizi che lei ha fatto sono stati secondo me bellissimi. No, le hanno fatte le nostre colleghe che io le ho solo mandate in onda, come ci mancherebbe. Vabbè, comunque diciamo come ha dato visibilità, ha dato cose importanti. Naturalmente poi in Europa c'è anche un partito a cui io appartengo, un partito filoatlantico, che sa che non c'è salvezza dell'Europa, soprattutto adesso che si sta lavorando sul Transatlantic Path, TTP, questo strano nomignolo, ma il Transatlantic Path che non si può fare con un'Europa che sta provocando una deflazione terribile in tutto il mondo. Naturalmente, e questo ce ne accorgiamo, i mercati l'hanno capito perché l'hanno punito, il bazooka di Draghi può essere caricato a 1000, ma non funziona. Ma non funziona in tutto il mondo. I lavoratori giapponesi, non ne ha parlato nessuno, no? I sindacati degli assicuratori dei bancari giapponesi, che sono una potenza politica e sindacale, hanno addirittura fatto un po' di scioperi, ma poi hanno rinunciato a chiedere, come fanno ogni anno, gli aumenti salariali per protestare contro la politica di tassi di interessi negativi che la banca centrale giapponese, imitando la Federal Reserve. Sì, mi scusi però sì. Sapelli, ma non funziona perché manca l'altra controparte. Perché la moneta non si può. No, dico, ma perché manca la controparte. Manca il piano IU, non è che manca la controparte, manca l'altra gamba. L'altra gamba, sono d'accordo. Tu puoi mettere tutta la moneta che vuoi. Ma se non ci sono piani di investimenti, come fai? Ecco, allora, lì vedi che ho ragione io, che si tratta di un disegno neoimperiale, perché il piano Juncker era già un passo avanti in questa cosa. Qui ci è servito solo a fare leggere contro l'Inghilterra, ricordate che Cameron non lo voleva, certo, perché aveva capito tutto, non lo voleva, il piano Juncker è servito solo a fare leggere un signore assolutamente incompetente di qualsiasi cosa, che da 14 anni... voglio dire, è stato bravissimo a costruire quello di che elusione fiscale se ne intende, però, esatto, a costruire quello che è il Lussemburgo, ma per quanto riguarda è bravissimo in politica come tutti i democristiani del mondo, ecco. Infatti l'Italia non ne ha più. Sapelli, siccome io fra un poco la devo salutare momentaneamente perché lei è ultraterreno, però sì, volevo capire una cosa, ma quello che a me sfugge, ma la Germania, Juncker, cioè, si rende conto che con le botte che sta pigliando l'Europa, vedi il caso greco e turco, l'incapacità di sanzionare l'Austria, i paesi che vanno ognuno per i casi suoi, l'attacco continua a Draghi, cioè, che poi non reggerà più, neanche gli europeisti riusciranno più a spiegare all'opinione pubblica che serve un'Europa. Prego. Ma amico mio, chi è animato da uno spirito di potenza e di dominio, elemento demoniaco che c'è nella storia tedesca, secondo la Ladislao Mittner, alcuni dicono che non sia vero, ma io credo che invece è molto potente, perché c'è la Germania di Goethe e poi c'è anche questa. Nell'Europa non gli importa assolutamente nulla. Ciò che gli importa è stabilizzare il suo sistema, dove ci sono cose, come lei ha evocato, la spalcasse, no? Ci sono le banche cooperative, c'è una politica keynesiana che funziona a bobo, a spesa pubblica. Per loro però funziona. Certamente, ma loro dell'Europa non gli importa assolutamente nulla. Loro hanno colto, perché questa è stata l'illusione italo-francese quando si è creato l'euro, e si pensava in questo modo di arginare 80 milioni, adesso sono 90 milioni di tedeschi in Europa, che gli studiosi di economia internazionale, di strategia, hanno sempre detto che sono incompatibili con l'Europa medesima in pace. Adesso per fortuna noi che cosa sta facendo l'Europa in sintesi? Carica, se lei nota, le sue contraddizioni anche dal punto di vista armato, come all'inizio del Novecento in Nord Africa, è ripresa una nuova stagione neocoloniale. È quello che stanno facendo i francesi, sono uno stato in decadenza, in Europa non contano due di picchi, cercano una via d'uscita mettendo 20.000 uomini in centro Africa. I tedeschi sono presenti anch'esso, gli italiani. Guardi, Sapelli mi ha depresso abbastanza, nel senso che ho capito benissimo che lei vede un piano dietro e non ho motivo per dubitarne. Della parte libica e della politica anche energetica torneremo a parlare, perché lei è un grande su questo. Io devo salutarla, augurarle comunque di volare per un weekend bello. lei che può permettersi di volare alto, augurare come sempre un buon fine settimana a tutti coloro che lo passeranno, a partire da chi lo passerà lavorando, e ringraziare Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'aiuto anche questa settimana in redazione e in assistenza. Poi torneremo con Sapelli, perché c'è poi tutto il fronte dell'approvvigionamento energetico, e quindi il nord africano. Intanto da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.